Benvenuti a un nuovo episodio di SciSummary Podcast, il podcast dove esploriamo le ultime ricerche nel campo della scienza e della tecnologia. Oggi parleremo di un argomento affascinante: le potenzialità dell'intelligenza artificiale generativa nell'assistenza ai lettori esperti di materiali culturali. Per farlo, ho con me un esperto in materia. Iniziamo con una domanda semplice ma fondamentale. Cos'è l'intelligenza artificiale generativa e perché è così rilevante per i lettori esperti? L'intelligenza artificiale generativa, o AIG, è una forma di intelligenza artificiale capace di creare contenuti originali e personalizzati sulla base di input specifici. È rilevante per i lettori esperti come accademici e ricercatori, perché non solo automatizza compiti ripetitivi, ma espande anche le capacità cognitive, offrendo new ways per analizzare e interpretare i materiali culturali. Interessante. E quali sono le principali operazioni trasformative che l'AIG può effettuare sui materiali culturali? Ci sono diverse operazioni chiave. Una di queste è l'adattamento, ossia la riformulazione dei contenuti per renderli più pertinenti per il destinatario e il contesto specifico. Inoltre, l'AIG può utilizzare schematizzazioni gerarchiche come le interfacce utente zoomabili per facilitare l'organizzazione delle informazioni. Questo aiuta anche a formulare domande orientative e a supportare lo studio attraverso domande e risposte guida. Quindi, in sostanza, l'AIG può personalizzare l'esperienza di apprendimento. Qual è il vantaggio di avere queste domande e risposte guida? Esattamente! Le domande e risposte guida aiutano a esplicitare nessi logici e concettuali, rendendo la comprensione più profonda. Questo non è solo un modo per sintetizzare le informazioni, ma anche per riorganizzarle in un modo che altera la percezione dell'approccio del lettore ai contenuti. E per quanto riguarda la transmedialità? Ho sentito parlare di come l'AIG possa rielaborare i contenuti da un formato all'altro. Puoi spiegare meglio questo punto? Certo! La transmedialità è la capacità di convertire contenuti da uno strumento o formato a un altro, come ad esempio passare da un testo a un video, o da un audio a un'infografica. Questo rende la conoscenza più accessibile e fruibile, particolarmente in contesti come l'e-learning e i musei digitali. Questo è molto affascinante. Immagino che ciò possa facilitare anche forme di rielaborazione, come note, recensioni o parafrasi. Esattamente. I lettori possono ora interagire con i materiali culturali in modi più vari e dinamici, sia scrivendo che parlandone direttamente con l'IA. Questo stimola un'interazione più profonda e personale con i contenuti. E c'è qualcosa che possiamo dire riguardo agli approfondimenti supportati e ai percorsi di ricerca che l'AIG può facilitare? Sì, uno degli esiti più significativi è la possibilità di produrre approfondimenti che siano documentati, multimediali e crossmediali. Questi approfondimenti possono innescare percorsi di ricerca automatizzati, creando circoli virtuosi fra scoperta e rielaborazione delle fonti. Quindi stai dicendo che l'AIG non solo arricchisce l'esperienza di lettura, ma promuove anche pratiche di ricerca autonome? Esattamente. Questo non solo aiuta i lettori esperti a costruire una comprensione più profonda, ma rafforza anche le loro competenze critiche. Incredibile. E per ultimo, quali sono le implicazioni epistemologiche e formative di tutto questo? Come cambia il nostro modo di concepire la conoscenza? Il modello suggerisce una visione della conoscenza come costruzione dinamica, interattiva e mediata. L'AIG diventa non solo un facilitatore, ma un amplificatore cognitivo. Questo è particolarmente utile in contesti formativi avanzati, dove la conoscenza si costruisce insieme, piuttosto che essere semplicemente trasmessa. Questo è un punto cruciale. Grazie per questa discussione illuminante. Prima di chiudere, hai qualche riflessione finale da condividere su come possiamo integrare questi strumenti nella ricerca accademica? Sì, l'integrazione dell'AIG nella pratica accademica richiede una riflessione critica e metodologica. È fondamentale valorizzare le opportunità, ma anche le responsabilità derivanti da un uso consapevole delle tecnologie intelligenti. Grazie ancora per gli approfondimenti e alla nostra audience per averci seguito. Speriamo che questo episodio abbia stimolato la vostra curiosità sulla generazione di intelligenza artificiale e il suo impatto sul mondo culturale. A presto per una nuova puntata!